Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 10 maggio il sole in regione sorto alle 5.40 e tramonterà alle 20.28. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Anche il mondo delle barbatelle non è riuscito a rimanere indenne dalla crisi e da parecchie regioni italiane sono arrivate disdette degli ordini. Per fortuna le previsioni per il 2020 erano più che rosee e quindi si è riusciti a contenere i danni. Ne parliamo nel servizio di apertura, per passare poi ai legumi e all'importanza che hanno per la nostra dieta e per la salute della terra. Di malvasia, repubbliche marinare e crociate si parla nella rubrica del vino, seguita da quella sulle piante con una scheda sulla controversa borragine. Due a seguire le rubriche dal versante gastronomico, quella del maiale con la panoplia di prodotti possibili secondo tradizione e quella delle ricette con l'utilizzo dei fiori in cucina. Andamento dei mercati, previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. La crisi del coronavirus ha creato dei problemi anche al mondo del vivaismo, al mondo delle barbatelle. Problemi che si stanno risolvendo ma hanno lasciato il segno. Ne parliamo con Eugenio Sartori, che è il direttore dei vivai cooperativi di Rauscedo. Innanzitutto, il primo impatto, com'è stato sul vostro lavoro? Avendo nel periodo febbraio, marzo, aprile da consegnare ancora circa il 50% di barbatelle, abbiamo chiaramente subito pensato che non saremmo giunti all'obiettivo stabilito e che potevano esserci problemi a livello di personale, di trasporti, di logistica, problemi che per fortuna però si sono risolti, perché dopo un primo momento di sbandamento in funzione del fatto che nell'Unione Europea c'è la libera circolazione delle merci, paesi che avevano tentato di chiudere o di limitare il transito poi hanno riaperto. Abbiamo trovato soluzione anche per le criticità emerse per il trasporto a lunga distanza, per esempio in Russia, in Georgia, chiaramente con costi raddoppiati, però alla fine siamo riusciti a venirne a capo. Le disdette da dove sono arrivate? Dalle zone più colpite dal coronavirus, come l'Oltrepò Pavese, il Piacentino, il Piemonte, e attualmente ci sono disdette che ci pervengono anche dalla Toscana, qualcosa dal Trentino, in zone dove l'impianto è tardo primaverile e purtroppo queste disdette ci fanno male perché sono troppo tardive rispetto al momento in cui è emerso il coronavirus. Perlomeno dovevamo essere avvisati prima, perché adesso il problema è che quelle barbatelle e altre barbatelle non vendute appunto in altri paesi a causa del coronavirus, come ad esempio in Francia, dovranno essere distrutte. Un'annata che però si stava presentando oltremodo bene. A gennaio noi pensavamo già di fare dei numeri nettamente superiori al preventivato, però oggi siamo bravi se riusciamo comunque a raggiungere quanto stabilito, quanto preventivato al mese di ottobre-novembre. Il fatto di aver avuto nel 2019 una produzione di uva limitata aveva riattivato il mercato e quindi c'era effettivamente una buona prospettiva per noi. Però diciamo tutto sommato riusciamo ancora a fare qualcosa di dignitoso. Ecco. Qualcuno dice che questa crisi cambierà addirittura le vigne. Come? Se dovesse durare 2 o 3 anni ci sarà uno spostamento a livello di consumo da tipologie di elevata qualità e di elevato prezzo, tipologie medie o medio-basse, e quindi chiaramente anche la gamma varietale verrà modificata, la richiesta proprio delle barbatelle da varietà più pregiate a varietà magari meno pregiate e più produttive. Se invece, secondo me, questa è un'opinione personale, si dovesse trovare la cura, il tutto fosse risolto nell'arco di un anno, non di più, io penso che il consumatore ritornerà alle abitudini precedenti. Voi avete per certi periodi anche 200-300 dipendenti. Come siete riusciti a gestirli in maniera del tutto indenne? Abbiamo preso immediatamente dei provvedimenti a livello di sicurezza sanitaria, quindi distanziamento, mascherine, sanificazione, controlli ripetuti. In effetti non abbiamo avuto problemi particolari, anche se qualche timore c'è stato, però alla fine noi stiamo continuando a lavorare, non abbiamo avuto nessun caso positivo e non abbiamo avuto nessun timore anche da parte degli addetti nel contrarlo. Il timore più grande per loro era di perdere il lavoro, la cosa invece non c'è stata, quindi direi che il luogo di lavoro tutto sommato è ancora il luogo più sicuro. La nostra dieta dovrebbe avere molti più legumi di quelli che solitamente mangiamo. Legumi che non solo fanno bene al nostro corpo, ma anche a quello della terra, come ci spiega Cristina Micheloni. Non è un tema nuovo, ma la stagione è perfetta per riprendere le fila. Dobbiamo produrre in casa più proteine vegetali e mangiarne di più in modo diretto, ovvero non solo attraverso i prodotti zootecnici. La crisi del Covid-19 ci ha dimostrato come sia fragile un sistema alimentare che si basa pesantemente su commodities che attraversano gli oceani per arrivare nei nostri mangimifici e da lì nei nostri allevamenti ed infine sulle nostre tavole. Allo stesso tempo è evidente come i terreni, ma anche il clima, soffrono la mancanza di leguminose. Perché la stagione c'è propizia? Perché proprio in queste settimane si raccolgono i primi legumi, piselli ma anche le fave, che non sono ortaggi esotici ma sono semplicemente stati messi da parte dall'arrivo del fagiolo. Prima osservazione, quanti comprano piselli da sgusciare? Ormai molto pochi, per i più il naturale contenitore dei piselli è la lattina o la busta dei surgelati. Così facendo però, oltre a perdervi una delizia, annulliamo il vantaggio ambientale, causa produzione e smaltimento degli imballaggi e il consumo energetico. Ci sono poi dei legumi che sono già stati seminati e stanno crescendo, ad esempio i ceci. Che altro si potrebbe seminare ora? E questo è un invito, un caldo cantissimo invito a provare a seminare qualcosa di diverso. Arachidi, strani legumi che crescono sottoterra, che oltre a essere sgranocchiati dopo l'essiccazione e la salatura, possono originare creme proteiche e olio di grande interesse, ma anche le vigne. Non quelle che producono il vino, ma quelle che prendono il nome da Domenico Vigna, direttore dell'Orto Botanico di Pisa nel 600. Si tratta di legumi dal seme piccolo, ma molto resistenti al caldo e alla siccità, che tornano di interesse proprio per l'andamento stagionale quest'anno, ma climatico in generale. Della famiglia fanno parte il fagiolo dell'occhio, che appunto non è un fagiolo, ma è la vigna unguicolata, e il fagiolo mungo, spesso chiamato soia verde, ma che invece è la vigna radiata. Sono particolarmente resistenti a patogeni e parassiti, hanno anch'essi forma determinata o rampicante, quindi si possono coltivare benissimo in pieno campo oppure nell'orto. Sono tutte leguminose, quindi fissano l'azoto e non hanno bisogno di fertilizzanti. Per farlo, però, debbono incontrare nel terreno il batterio azoto fissatore specifico. Quindi, se da decenni o addirittura secoli non vengono coltivati, è abbastanza improbabile che ciò avvenga. Per sicurezza si può ricorrere all'inoculazione, almeno il primo anno, ma attenzione a scegliere il batterio specifico per la specie coltivata. Infine, se tutto questo ha un senso ambientale, e lo ha di certo, dobbiamo pensare di consumare legumi bio, locali, freschi o essiccati. Così contribuiamo anche alla diversità nei campi, alla fertilità dei suoli e alla sostenibilità degli agricoltori più innovativi. Repubbliche marinare, crociate e pellegrini, tre fattori che nel Medioevo condizionarono il mondo del vino, come ci racconta oggi Roberto Zironi, docente di enologia all'Università di Udine. Cosa succede nel tardo Medioevo nel Mediterraneo? Si consolidano le famose quattro repubbliche marinare. In contemporanea, a partire dall'undicesimo secolo, il Mediterraneo viene invaso anche da tutte le popolazioni prima crociate e dai pellegrini che si volevano recare in Terra Santa. Attraversando l'Italia o partendo da Venezia, chiaramente i viaggiatori del nord Europa sentivano, assaggiavano dei vini che non erano abituati ad assaggiare a casa propria. E ne prendevano, diciamo, confidenza specialmente per la loro robustezza e spesso per la loro dolcezza. E quindi si diffonde, diciamo, una cultura del vino mediterraneo che prende genericamente il nome di Malvasia. Cioè le Malvasie derivano, diciamo, il loro nome non tanto dal vitigno di partenza, in quanto potevano essere ottenuti con vitigni anche non aromatici, come oggi spesso consideriamo essere la Malvasia, ma fondamentalmente perché prendevano il loro nome dal porto d'imbarco, che è la città fortificata del Peloponneso. La terza crociata porta chiaramente ad una evoluzione nella produzione del vino, perché l'isola di Cipro viene a essere praticamente sotto il controllo dei crociati e a partire dal 1400 Venezia controlla l'isola. E i cavalieri di San Giovanni, che poi diventarono cavalieri di Malta, diciamo fondano una comandaria, cioè un piccolo diciamo convento, dove si produce un vino dolcissimo, il comandaria, che ancora oggi viene prodotto. Venezia, da parte sua, pur non avendo mai partecipato direttamente alle crociate, ne prende profitto in modo anche molto spregiudicato, diventa praticamente controllore dell'isola di Creta, facendone un centro di produzione della Malvasia. Oggi Antonino Daneluto ci parla della borragine, pianta bella da vedere e buona da mangiare, anche se con qualche accortezza. Non tanto comune in regione, la borragine o borrana è presente in poche zone dalla pianura alla montagna, solitamente negli orti, ma anche nei terreni coltivati o incolti e nelle aree ruderali. Il suo nome scientifico è Borago officinalis, in friulano burazze o burage. È una pianta erbacea annua ricoperta di fitta peluria ispida. Il fusto è retto e ramificato, è alto mediamente 30-40 cm. Le foglie sono ovato-lanceolate, ruvide, quasi pungenti per la presenza di peli rigidi. Quelle alla base sono ravvicinate a rosetta. Da maggio ad agosto, e spesso in periodi più ampi, compaiono fiori vistosi di un bel colore azzurro intenso. La loro corolla ha forma stellata e fra i 5 petali si alternano 5 lunghi sepali lineari. In cucina, tradizionalmente, i germogli tagliuzzati vengono consumati in insalata e le foglie molto giovani e tenere sono impiegate in modeste quantità in minestre oppure cotte e condite con olio aceto o impanate e fritte. I fiori possono venire aggiunti all'insalata. Canditi possono servire per guarnire torte. C'è da dire che tutta la pianta, soprattutto da adulta, contiene piccole quantità variabili di alcaloidi pirolizidinici assai tossici a livello del fegato. Per tale motivo, gli usi culinari tradizionali della borragine vanno scomparendo. Lo stesso discorso vale per l'impiego terapeutico della pianta, sia perché l'attività farmacologica non è stata sufficientemente dimostrata, sia per la presenza appunto degli alcaloidi pirolizidinici epatotossici e cancerogeni. In passato la medicina popolare utilizzava con una certa prudenza le foglie e le sommità fiorite, raccolte in maggio-agosto e contenenti soprattutto mucillagini, tannini e saponine, per cui venivano considerate emollienti contro la tosse, sudorifere e depurative. Di interesse farmaceutico, invece, è l'olio, che si ottiene dai semi ricchi di acidi grassi omega 6. È utile per la sua azione antinfiammatoria, contrasta le malattie autoimmuni e le artriti, abbassa il livello di colesterolo e mantiene la pelle morbida, idratata ed elastica. Si racconta che prima di ogni battaglia i guerrieri celti mangiassero la borragine per infondersi coraggio. La pianta ebbe la massima importanza nel Medioevo, poiché allora era ritenuta un efficace rimedio contro la peste. Dallo soccollo al pestat è il titolo del contributo di questa puntata di Adriano Del Fabbro, che ci parla di tutte le produzioni tradizionali possibili con il maiale, e non sono poche. Per lo soccollo si utilizzava la carne del collo del maiale, preferibilmente quella di sopra, dizionata di sale e pepe. Tagliata tutta ad un pezzo, si arrotolava su se stessa e si infilava in un budello di manzo cieco. Affettato, si consumava l'anno successivo in occasione del Natale. La costa era confezionata con la carne staccata dalle costole, con l'aggiunta di sale e pepe. Arrotolata su se stessa, veniva infilata in un budello di manzo che a sua volta veniva avvolto in una rete elastica che si stringeva lentamente seguendo l'asciugatura del contenuto. Tagliata a fette, veniva consumata dopo almeno 4-5 mesi di stagionatura. Per la pancetta si utilizzava una parte del sottopancia del maiale, quella con il grasso migliore. Al pezzo rettangolare ottenuto, tolta la cotenna, si aggiungevano spezie, sale, rosmarino e origano. Quindi si arrotolava la carne su se stessa e si legava con dello spago grosso o si incalzava in apposite reti o in un budello grosso di manzo. Si poteva consumare dopo 6 mesi di stagionatura, ma reggeva pure una maturazione lunga fino a 2 anni. Il lardo diventava baffa. Tagliato un bel pezzo di grasso sottocutaneo del dorso, lo si cospargeva di pepe e molto sale. Quindi con l'aiuto di uno o due bastoni lo si arrotolava strettamente. La contenna veniva poi bucata all'estremità per far ripassare dello spago grosso e chiudere così questo salume che poteva raggiungere un metro di lunghezza e avere 25 centimetri di diametro. Ben sigillato con lo strutto durava fino a 2 anni. A 1 mese dal confezionamento, affettato molto sottile, si accompagnava con la polenta abbrustolita o il pane. Tagliato a pezzetti era uno degli ingredienti di forza di minestroni e frittate, di sughi e arrosti, indispensabile nelle dricculis fricis. Il grasso cotto con qualche foglia di rosmarino, salvia e alloro diventava strutto. Conservato in capaci contenitori di coccio, pietra o vetro o nella vescica stessa del maiale, era assai utilizzato per cuocere le patate e per preparare i fritti, crostoli compresi. Quello macinato, fresco, invece, poteva essere miscelato con le verdure, aglio, cipolla, carote, sedano, rosmarino, prezzemolo, il sale e il pepe. L'impasto, il pestato, appunto, veniva insaccato o, in altre versioni, la sassaca o il warache, veniva versato in grossi vasi di coccio o di vetro. Se non entrava negli ingredienti del muset, la coda veniva salata e appesa a essiccare nel camarin, da sola, per cucinarla nel minestrone o, più spesso, nella minestra di fagioli. Mettete dei fiori nei vostri tegami. Inizia così l'angolo gastronomico di Roberto Zottar, che ci parla dell'utilizzo non solo coreografico dei fiori in cucina. È primavera e possiamo approfittare dei fiori che da sempre giocano un ruolo importante nelle diverse gastronomie. Il Vecchio Testamento e il Corano raccontano anche delle qualità gastronomiche di alcuni fiori e la tradizione poi non ha mai dimenticato le loro presunte potenzialità afrodisiache esaltate in marmellate, dessert e liquori. I romani utilizzavano petali di rose e di violette per insaporire pietanze o per aromatizzare il vino e Apicio nel De Re Coquinaria spiegava come preparare un piatto di rose con cervella e uova. Se Carlo Magno ingentiliva il vino con garofani, in Inghilterra durante il regno di Elisabetta I si apprezzavano le primule nelle macedonie di frutta, mentre i padri pellegrini usavano le calendule gialle per insaporire i brodi di carne. Alcune verdure sono in realtà fiori, come i carciofi, i broccoli e il cavolo, mentre i capperi sono boccioli di fiori e i veri frutti della pianta, pure eduli, si chiamano cucunci. I boccioli del nostro tarassaco, tra l'altro, si possono mettere sotto sale per avere dei capperi nostrani. Freschi, essiccati, sotto sale o in infusione, sono tanti i modi di utilizzare i fiori in cucina. Alcuni fiori sono però velenosi, come il pomodoro, la melanzana, l'oleandro, il ciclamino, la stella di Natale e la belladonna, che è allucinogena. Sono invece consentite scorpacciate di sambuco, acacia, borragine, malva, primule, calendule, margherite, rose, viole del pensiero, ibiscus, che ci dà anche il carcadè, geranio odorosi, nasturzi, glicini. Gianfranco Vissani cosparge di fiori rosa, fiori di pesco il suo risotto, mentre lo chef Igle Scorelli prepara una macedona d'astice e sambuco e un pollo ai fiori da caccia. I fiori di zucca fritti, ricetta di origine italo-spagnola, sono uno sfizioso finger food, croccanti fuori e con un cuore morbido se farciti con mozzarella e acciughe. Basta passarli poi in una pastella di farina e acqua ghiacciata prima di friggerli in olio. Tra i molti libri di cucina dei fiori ricordo quelli del giardiniere di Italo Calvino, Libereso Guglielmi, che ha scritto Mangiare il giardino e cucinare il giardino. I fiori sono tradizionalmente presenti nella nostra cucina, ma l'unico ricettario che ne parla è il manuale di Caterina Prato del 1892, che consiglia di friggere i fiori di sambuco e di acacia, che in realtà è una robinia. I fiori si immergono in una pastella di farina e acqua o farina e birra e si friggono in burro o olio. Si mangiano cosparsi di zucchero. Parafrasando una celebre frase pacifista degli hippie, potrei concludere: mettete dei fiori nei vostri tegami, che è un appello di allegria e fantasia di cui in questo periodo ne abbiamo proprio bisogno. Buon appetito! E con Amos D'Antoni ora all'andamento dei mercati agricoli. Andamento poco attivo venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Udine e Pordenone, avvenute attraverso videoconferenze causa Covid-19, con prezzi in diminuzione. e dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,40 e 16,60 euro al quintale IVA esclusa, la soia tra 36,80 e 37,10, l'orzo con peso specifico 60-63 tra 15,60 e 16,10 e il frumento tra 19,40 e 19,70. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 40 centesimi e la soia di 5,10 euro il quintale. Mercato stazionario nel comparto dei bovini da macello, con le vacche fine carriera di prima qualità pagate a peso morto tra 2,20 e 2,60 euro al chilo IVA esclusa e quelle di seconda tra 1,40 e 2,20. Riprende quota il settore dei vitelli da ristallo, con i blu belga maschi quotati in aumento tra 6,40 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4 e 4,50, i frisoni tra 1,60 e 1,80 e i bruni tra 1,50 e 1,70. Toni con tendenze sofferenti invece nel comparto suinicolo, con il valore della tonzola di 30 kg franco partenza fissato a 2,90 euro al chilo IVA esclusa e i grassi da macello a 1 euro. Domanda stabile nel settore caseario, con il prezzo del montaggio fresco compreso tra 6,05 e 6,35 euro al chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 7,20 e 7,50, lo stagionato 12-15 mesi tra 7,90 e 8,30. Per quanto riguarda il prezzo del latte naturale di vacca franco stalla, la Commissione della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, riunita in videoconferenze, lo ha quotato a 36,33 centesimi il litro più premi qualità e IVA. E con il previsore dell'ARPA Osmer Arturo Puccillo diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Gli ultimi giorni di aprile e i primi di maggio hanno dato finalmente spazio alla pioggia, quella vera, dopo un mese di aprile e buona parte di marzo estremamente siccitosi. Infatti, martedì 28 e mercoledì 29 aprile sono stati caratterizzati da piogge diffuse, da abbondanti e intense anche a carattere temporalesco. In pianura sono caduti fino a 80 mm di pioggia in 12 ore, mentre sulla costa ci si è fermati a 20-25. Il sistema depressionario è rimasto attivo anche nei giorni successivi, portando ulteriori piogge a carattere temporalesco, prima sui monti e alta pianura, e poi, specie sabato 2, anche sul resto della regione. Va segnalata un'intensa grandinata tra Isontino e Bassa Friulana, determinata da un sistema temporalesco che, con moto retrogrado, da est verso ovest, ha raggiunto poi la destra tagliamento, prima di essere riassorbito nel flusso predominante da nord-ovest. Un breve episodio di bora ha concluso questa fase domenica 3, aprendone un'altra con una prevalenza di correnti nord-occidentali, al confine tra anticiclone e depressione, con predominio del primo fino a queste ultime ore. Venendo quindi alle previsioni, la settimana entrante si apre con uno smantellamento del promontorio anticiclonico ad opera di un sistema frontale che passerà sulla regione tra domani e martedì. Avremo quindi domani cielo coperto e piogge diffuse anche temporalesche, moderate e intermittenti sulla costa, più abbondanti in pianura fino a intense sulle prealpi, favorite da un vento di scirocco sostenuto. Martedì il fronte più attivo si sarà allontanato verso est e affluirà aria più fresca in quota, che manterrà una certa instabilità e un afflusso di aria umida. Il cielo continuerà a essere coperto e ci sarà occasione per qualche rovescio anche temporalesco. In giornata entrerà bora, con temperature in calo. Mercoledì sembrerebbe esserci il passaggio di un altro moderato fronte con qualche pioggia, meno diffusa e più moderata, ma comunque possibile su tutto il territorio, con venti più deboli. Da giovedì a sabato prossimi si avrà un graduale miglioramento, più evidente venerdì e sabato, quando prevarranno le schiarite e le temperature aumenteranno fino a portarsi nei valori massimi ben oltre i 25 gradi in pianura. In attesa di un eventuale nuovo peggioramento verso sabato e domenica, naturalmente tutto da confermare. Per gli aggiornamenti, come sempre, vi invitiamo a seguire le previsioni di Osmer ARPA sulla RAI regionale, su internet, telefonia mobile e sui vari social media. Alla prossima! Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. Mai salte fure il cai, ovvero a maggio escono le chiocciole, che segue l'altro proverbio. Prime ploe di avril, el cai al buteiu el capelir, ovvero alla prima pioggia di aprile la chiocciola getta l'opercolo. Coordinamento tecnico di Daniela Posto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.